9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, in questa mercoledì 13 di gennaio ci dedicheremo a soddisfare le vostre curiosità e anche spero un po' di solido interesse, più che curiosità, intorno ai numeri che descrivono l'Italia. Apparentemente può sembrare una trasmissione un po' bizzarra, cioè fuori dalla cronaca, fuori da quello che succede nelle aule della politica, e in realtà nella mia esperienza di giornalista economico, di modesto giornalista economico, ho assistito nel progredire degli anni e dei decenni nel nostro paese a un singolare fenomeno che è diventato sempre più centrale, e per questo ho deciso di invitare con noi oggi il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. Buongiorno presidente. No. Il fenomeno al quale ho assistito io facendo questo mestiere, ma insomma assistono ogni giorno gli italiani assistendo ai dibattiti che avvengono nelle trasmissioni radiofoniche come queste, nelle trasmissioni televisive, in generale sui media di ogni tipo, e la difficoltà crescente rispetto a qualche tempo fa di condividere nel nostro paese, quando si tratta di osservatori che appartengono a punti di vista, opinioni, correnti di pensiero, politiche diverse, di partire comunque dal presupposto di un'analisi che descrive i fenomeni, di un'analisi quantitativa che descriva la realtà economica, sociale del nostro paese, condivisa. E mi ha sempre più colpito questo fenomeno di un paese che non ha alla base del proprio dibattito pubblico una pacchetto di dati condivisi quantitativi, un linguaggio comune condiviso. E tanto è vero che l'esperienza, come sapete tutti voi in ascolto, è che tutte le volte che si parla di un particolare problema, si può parlare, e oggi lo faremo insieme al presidente dell'Istat, dei panieri con cui si procede a fare le rilevazioni degli indicatori dei prezzi per misurare l'inflazione. Si può parlare di come nel nostro paese e in comparazione negli altri grandi paesi avanzati si misura e considerano fenomeni come la disoccupazione oppure come il livello di povertà relativo. Ogni volta quando si cita un dato si assiste al fatto che dall'altra parte c'è qualcuno che dice: no, le cose non stanno così, il tuo dato è sballato. Il punto è che di solito chi fa il nostro mestiere, a prescindere da chi fa la politica e così via, dovrebbe, io mi sforzo di farlo ogni volta, attingere ai dati che fanno parte del sistema statistico nazionale, come per quelli che riguardano la finanza pubblica, il sistema di contabilità nazionale, cioè attingere a dei dati che appunto bisogna, con tutte le approssimazioni di dati elaborati comunque secondo indicatori e convenzioni statistiche, ma bisogna considerare autorevolmente ufficiali, perché appunto quelle sono le convenzioni in base alle quali l'Istat, la Banca d'Italia eccetera eccetera elaborano, assumono questi dati in maniera che in tantissimi casi quasi sempre è convergente con i criteri statistici di elaborazione prevalente sul mercato internazionale. Questa piccola premessa per capire che cosa chiediamo oggi al presidente dell'Istat, anche perché lo abbiamo invitato in occasione di un'iniziativa che ieri ha assunto l'Istat, cioè quella di rendere meglio consultabili una ampia scelta delle 100 statistiche, 112 schede in realtà sono distribuite in 18 settori di interesse che descrivono il nostro paese. Noi Italia si chiama questa iniziativa, ed è proprio di lì che oggi trarremo alcuni dei dati con cui sui quali chiederemo al presidente dell'Istat di intrattenerci. Una prima domanda però per conoscere meglio Enrico Giovannini. Enrico Giovannini è uno statistico di professione, uno dei migliori che ci siano in Italia. Professionalmente l'Istat è un po' il cuore della sua formazione, insomma all'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura, l'ISCO, dove era dirigente di ricerca. Poi ha dato una mano al Tesoro italiano in alcuni momenti delicatissimi su compiti importanti, ha portato la sua esperienza anche all'estero, all'OCSE dal 2000 in avanti, proprio occupandosi di perfezionare la divisione statistica dell'OCSE, e poi da qualche mese è stato richiamato in Italia a perfezionare, alla luce di tutte queste sue esperienze, l'Istat. Ma da dove nasce questa sua passione per i numeri e la statistica, Giovannini? In realtà io sono di formazione un economista, ho fatto economia e commercio e anzi devo dire che dopo il primo esame di statistica avevo deciso, anzi mi sono proprio detto, io con la statistica non voglio avere nulla a che fare nella vita, quindi attenzione, mai dire mai. Perché invece mi sono appassionato ai dati, ma non solo i dati, soprattutto l'utilizzo dei dati. Forse gli ascoltatori non sanno che l'origine della parola statistica è scienza dello Stato, perché, come lei ha ricordato, i dati servono per decidere. Einaudi richiamava, il governatore della Banca d'Italia Draghi ha proprio richiamato questo punto pochi giorni fa, conoscere per decidere. E i dati statistici sono uno dei pezzi fondamentali della conoscenza che un politico, ma direi anche un cittadino, deve conoscere per prendere decisioni migliori. E allora il mio impegno, anche di carattere se vuole etico, ma non è solo il mio, è quello di tante persone, migliaia di persone che lavorano nel sistema statistico nazionale, è quello proprio di contribuire a una migliore conoscenza dei fenomeni economici, sociali e ambientali per consentire a tutti, compresi i cittadini individuali, di prendere decisioni migliori. Nella sua esperienza, poi entreremo nel merito di alcuni almeno degli aspetti più rilevanti che si deducono da un'occhiata ad alcuni dei diversi capitoli di questa raccolta delle statistiche italiane, ma nella sua esperienza anche internazionale degli ultimi anni, come siamo messi dal punto di vista italiano rispetto ad altri grandi paesi avanzati? Le faccio un esempio. Capita spesso di riflettere su come mai, per esempio, in materia di occupazione e disoccupazione nel nostro paese noi abbiamo delle rilevazioni che sono in realtà trimestrali e che ci restituiscono una fotografia del mercato del lavoro abbastanza distante, se pensiamo per esempio che negli Stati Uniti, quindi un mercato molto più ampio di quello del nostro paese, come lei sa, ogni venerdì di ogni settimana che Dio manda interna, il Dipartimento del Lavoro aggiorna il dato su coloro che in quella settimana hanno richiesto il primo trattamento di disoccupazione. Se cito questo dato non per puntare il dito sui nostri presunti ritardi, ecco, però come siamo messi davvero nella sua esperienza? Beh, intanto a partire da ottobre anche l'Italia dispone di dati sul mercato del lavoro mensili, perché l'indagine sulle forze di lavoro è stata appunto mensilizzata e ormai diamo dati a meno di un mese di riferimento, come fanno tutti gli altri paesi del G7. Questa è stata un'importante innovazione degli ultimi mesi. Detto questo, e mi piace il suo riferimento agli Stati Uniti, non è che l'Istat da solo, soprattutto con le risorse disponibili, ma su questo tornerò successivamente, possa riuscire a fare indagini su tutto lo scibile umano, indagini statistiche classiche se vuole, cioè indagini in cui si va a chiedere alle persone cosa fai, cosa non fai, eccetera. Ma sempre di più si devono utilizzare i cosiddetti dati amministrativi, cioè i dati che le imprese, ma anche le persone fisiche, producono quotidianamente, pensiamo alle anagrafi, pensiamo ai dati sulle dichiarazioni dei redditi, eccetera, eccetera, che quindi il sistema amministrativo di un paese produce quotidianamente. Perché gli Stati Uniti riescono a dare i dati così rapidamente sul mercato del lavoro? Perché hanno un sistema amministrativo estremamente efficiente, ma soprattutto perché, ad esempio, i salari vengono pagati settimanalmente in molti casi, mentre in Italia o in Europa vengono pagati mensilmente. Ed è quindi un intero sistema anche amministrativo che riesce a dare dati più tempestivi, accumulando i dati settimanali, prima che, per esempio in Europa, si possano accumulare i dati mensili. Come è messa l'Italia rispetto all'Europa soprattutto? Direi che è messa molto bene. Intanto, forse gli ascoltatori non sanno, che ormai l'80% delle statistiche prodotte dall'Istat sono soggette ai cosiddetti regolamenti statistici comunitari, cioè definizioni, classificazioni, tempistica di rilascio dei dati vengono stabiliti ormai per legge a livello europeo. e se i paesi non fanno quello che sono indicati, quello che è indicato nei regolamenti, scattano multe anche molto salate. Proprio da questo punto di vista, quindi, l'Italia è allineata agli altri paesi. Solo un dato per anche indicare lo sforzo che il paese pone sulle statistiche, ma su questo torneremo successivamente: questi risultati sono ottenuti in presenza di un investimento della statistica, del governo, del Parlamento, della spesa pubblica in statistica, che è la più bassa di tutti i paesi europei, praticamente la metà di quello che si spende in Francia. Vabbè, visto che ci troviamo, però entriamo anche nel merito, perché lei, proprio presentando questa iniziativa, di cui poi subito dopo iniziamo ad addentrarci in almeno alcuni dei particolari più interessanti, ieri nel presentarla lei ha fatto presente che quest'anno e l'anno prossimo sono gli anni del censimento, quest'anno dell'agricoltura, poi l'anno prossimo di quello generale, ma c'è un punto delicato che riguarda proprio le risorse, mi pare di capire. Sì, effettivamente gli anni all'inizio di ogni decennio sono gli anni dei censimenti, anni che quindi coinvolgono non solo il sistema statistico nazionale, ma tutto il paese. Fare un censimento vuol dire lavorare con 8.000 e passa comuni, vuol dire avere migliaia di rilevatori che girano per il territorio rilevando i dati, vuol dire soprattutto coinvolgere tutti i cittadini. Questa è un'operazione complessa, costosa, ma è importante anche dire che non è puramente un'operazione statistica, perché a partire dal censimento vengono ad esempio verificate tutte le anagrafi della popolazione e quindi vengono anche calcolati i cosiddetti dati della popolazione legale, da cui dipendono il numero di consiglieri comunali, i finanziamenti ai comuni, eccetera, eccetera. Cioè il censimento non è puramente un'operazione statistica e purtroppo per i censimenti della popolazione mancano 500 milioni rispetto al budget complessivo e soprattutto manca la legge di indizione che renderà operativo tutto il sistema di raccolta dati. Ma su questo lei ha avuto, insomma, riservatamente, ufficiosamente degli impegni che risalgono a quanto, sia per l'ammontare che per la legge, o siamo proprio scoperti, per così dire? Io sono stato molto soddisfatto che il governo e il Parlamento abbiano votato nel settembre scorso il finanziamento e la legge di indizione del censimento dell'agricoltura per complessivi 128 milioni e in tempi molto rapidi. E quindi credo che il tema sia non solo ben noto alle autorità politiche, ma che ci sia intenzione e impegno a procedere nei tempi brevi a finanziare e a indire il censimento. Allora, iniziamo da alcuni almeno degli aspetti, in questo caso sono io che scelgo, quindi ohimè il giudizio è il mio, più interessanti del riepilogo generale. Si parla soprattutto dei dati naturalmente aggiornati al 2008, che ieri avete riaccorpato per renderli più agevolmente consultabili da parte dei cittadini con questa iniziativa che si chiama Noi Italia. Iniziamo per esempio dalla produttività, che è uno degli aspetti dell'economia italiana, a mio modesto giudizio, più trascurato nel dibattito pubblico. È giustissimo occuparsi del fenomeno dell'aumento della disoccupazione nel nostro paese, lo ricordo, più contenuta che nella media dei paesi dell'euroarea e in generale dell'UE27 e degli Stati Uniti. Siamo quasi 2 punti ancora sotto la media di queste aree per disoccupati. È giustissimo naturalmente occuparsi di quanto siamo lontani oggi in termini di volume di prodotto industriale rispetto al 2007, punto più alto, 100 trimestri di produzione industriale persa a fine 2009 che ci riportano indietro per quanto riguarda la produzione industriale a 25 anni prima, e questo va paragonato ai soli 12 trimestri persi di produzione industriale in Francia e 13 trimestri in Germania. Ma della produttività si tende a parlare un po' meno, che invece è, per così dire, il percorso di medio periodo su cui abbiamo accumulato il problema più preoccupante nel nostro paese. Allora io ricordo, Giovannini, semplicemente 2 dati presi appunto dalle pagine di Noi Italia che riguardano la macroeconomia, voce produttività del lavoro. Se guardiamo l'Italia rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, nel 2000, facendo base 100, numero indice dell'Unione Europea 27, l'Italia aveva una produttività per occupato nel 2000, ripeto, pari a 126, nel 2008 è scesa a 107. 6 e in generale quindi non siamo messi molto bene. Se pensiamo che ci sono paesi come la Francia in cui nel 2000 la produttività per occupato era 125 e nel 2008 era 121, e se pensiamo che la Germania, paese che è il paese leader dell'euroarea, ma soprattutto il paese che ha più manifattura come noi e esporta più di noi, l'ex esportatore numero uno al mondo, visto che la Cina l'ha superato nel 2009, anche la Germania stava a 108 nel 2000 ed è scesa solo a 107,6, mentre noi abbiamo accumulato una discesa molto rilevante. Altro elemento che riguarda la produttività del lavoro, questo è il PIL per ora lavorata nelle maggiori economie europee sempre negli anni 2000-2008, l'Italia passa, questa volta il numero indice uguale a 100 è riferito all'euroarea, cioè l'Unione Europea, a 15. L'Italia aveva un PIL per ora lavorato che rispetto all'indice 100 nel 2000 era 99,1, siamo scesi a 88,2 nel 2008. Esempio, Germania era a 107,3 nel 2000 e salita a 110,4. La Francia era a 115 nel 2000, sta a 115,5 nel 2007, il dato più aggiornato. Ecco, Giannini, la produttività un po' trascurata nel nostro dibattito, questi due dati che abbiamo, che ho ricordato, dal punto di vista dell'economista e dello statistico, a che cosa dovrebbero indurre il dibattito pubblico e politico? La produttività non è soltanto il risultato ex post del rapporto tra la produzione e l'input di lavoro, l'occupazione o le ore lavorate. In realtà è un obiettivo strategico di un paese, perché se un paese non riesce a essere appunto produttivo, non riesce a mettere da parte quelle risorse necessarie per il proprio futuro. E in particolare in questo ambito acquisisce un elemento particolarmente rilevante, la cosiddetta produttività multifattoriale, cioè la capacità di combinare in modo efficiente i vari fattori della produzione, in particolare il lavoro e il capitale. Io sono tornato in Italia dopo quasi 9 anni e quando qualcuno mi dice ma che cos'è questa produttività multifattoriale e perché in Italia è addirittura diminuita? E io rispondo, ma hai mai la sensazione che per fare le stesse cose che facevi 5 anni fa devi faticare di più? E la persona mi dice sì, ecco, quella è la produttività multifattoriale in diminuzione, cioè un indicatore di efficienza del sistema. La cosa che preoccupa rispetto al caso italiano, e sono d'accordo con lei che se ne parla troppo poco, è che la buona notizia negli anni 2000 è che c'è stato un forte aumento dell'occupazione, anche più forte rispetto ad altri paesi, ma che questo non sia accompagnato con un miglioramento dell'efficienza con cui queste risorse sono combinate. Anzi, c'è stato quasi un trade-off, abbiamo implicitamente o esplicitamente accettato di alzare l'attività, la partecipazione al mercato del lavoro, con strumenti di flessibilità anche al mercato del lavoro che erano benvenuti secondo me e molto utili per questo, ma che avevano la caratteristica di concentrarsi in settori, segmenti della produzione e comunque con qualifiche a bassa produttività, appunto. La cosa che sorprende è che siamo in una fase, in un decennio direi, di forte innovazione tecnologica. E quindi ci si aspetterebbe che l'innovazione tecnologica aumenti la produttività complessiva dei fattori e non la riduca. Ora è chiaro che se lei sostituisce una macchina da scrivere con un computer, ma continua fondamentalmente ad avere lo stesso approccio di prima, cioè fa scrivere a una segretaria una lettera e poi la manda per posta e poi, cioè senza cambiare il processo produttivo, è chiaro che la macchina da scrivere andava tanto bene quanto un computer. Ecco, quello che sembra mancare alle imprese italiane, ma anche in parte alla pubblica amministrazione naturalmente, è la capacità di riorganizzare i propri processi produttivi in modo più efficiente usando la tecnologia. Hola, 2 minuti su un tema dannatamente invece rovente nel dibattito pubblico e lo è diventato ancora di più negli anni del successivo all'ingresso nell'euro, cioè come l'Istat procede alla rilevazione degli indici dei prezzi. E ancora di pochissimi giorni fa il secondo quotidiano economico finanziario del paese ha sparato a zero dicendo: ma quali criteri dell'Istat? Qui gli aumenti di ciò che conta davvero per il paniere di famiglia media italiana sta a più 10, più 12% e così via. Allora, noi abbiamo diversi indicatori dei prezzi elaborati dall'Istat, che negli ultimi anni ha in realtà aderito alle richieste che venivano anche dai media eccetera eccetera di elaborare dei panieri diversificati per tipo, per così dire, di reddituale. Però voglio lasciare a lei la risposta. Devo dire che però tra un minuto la interrompo e poi riprendiamo, perché c'è un aggiornamento giornalistico da dare. Intanto, cosa risponde a chi due giorni fa le ha detto non va bene come rilevate i prezzi? Primo elemento, la critica ai prezzi, soprattutto dopo l'entrata dell'euro, è stata una critica che ha investito l'Italia, la Francia, l'Olanda, la Germania, cioè tutti i paesi. E quindi, tutt'al più, non è un fatto puramente italiano, e questa è già una buona notizia, perché sgombra il campo dall'idea che qualcuno voglia tenere artificialmente bassa l'inflazione per fini politici e così via. La vera domanda è: possibile che un sistema dei prezzi che ha funzionato per tanti tanti anni improvvisamente non ha capito nulla sull'introduzione dell'euro e abbia sbagliato delle proporzioni assolutamente fantasiose di cui si parlava dopo l'introduzione dell'euro? Stiamo parlando di numeri del Sistema Statistico Nazionale con il presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Lo avevamo interrotto dopo che si era posto la domanda retorica. L'argomento era gli indici, i panieri per rilevare i prezzi. Ricordo chi ci ascolta che l'Istat ha un indicatore generale del livello dei prezzi, che è quello fatto standard con i criteri europei e per rendere comparato quindi l'andamento dei prezzi nel nostro paese rispetto agli altri paesi europei. C'è poi un indicatore nazionale che si riferisce al totale della collettività, e ce n'è uno che appunto è stato il prodotto dell'allargamento, dell'accoglimento da parte dell'Istat della richiesta che veniva così pressante dai media, e che è relativo invece all'andamento dei prezzi. Quindi c'è un paniere individuato per rilevare l'andamento dei prezzi con specifico riferimento alle famiglie di operai e impiegati. La domanda retorica che si poneva Giannini era: possibile che tutto un sistema statistico, non solo in Italia ma anche negli altri paesi europei, dopo l'euro impazziva improvvisamente? Prego. Ci sono quattro possibili spiegazioni per cui un indice dei prezzi improvvisamente non funziona più. Primo, l'Istat, non solo l'Istat, fa i conti a tavolino e quindi non rileva veramente i prezzi. L'Istat, in realtà i comuni che collaborano con l'Istat ogni mese, centinaia di rilevatori che vanno in giro per tutta Italia a rilevare questi dati, rilevano circa 300.000 quotazioni mensili di prezzi, cioè lo stesso numero che viene rilevato per fare l'indice dei prezzi negli Stati Uniti. E se pensiamo alle dimensioni diverse tra Stati Uniti e Italia, capiamo quanti prezzi vengono rilevati in Italia. Quindi è difficile dire voi non rilevate i prezzi. Seconda domanda possibile: non rilevate i prezzi delle cose che contano, e quindi rilevate i prezzi della ciriola famosa che si diceva tanto tempo fa, che ormai è scomparsa dal mercato, invece di rilevare i prezzi di un altro tipo di pane. Questo anche purtroppo per i critici non è vero, perché i comuni rilevano proprio i prezzi dei prodotti più consumati, ognuno nella propria regione, ognuno nel proprio comune. Quindi anche questa idea che i prezzi non sono rappresentativi, mi dispiace, ma non funziona. Terza possibile critica: sì, ma la struttura dei consumi, i cosiddetti pesi che voi attribuite a ciascuno di questi prezzi, è sbagliata. Per esempio, attribuite troppo poco peso alla voce X, mentre invece dovreste dargli più peso. Ora, i pesi questo vengono... direi che è uno dei classici veramente argomenti. Ecco. I pesi vengono attribuiti in realtà sulla base di un'altra rilevazione che fa l'Istat su oltre 25.000 famiglie ogni anno, e quindi vengono di nuovo dalla struttura delle dichiarazioni dei consumi degli italiani, e quindi in più viene integrata con tante altre fonti eccetera eccetera, e questa struttura evolve anno dopo anno, per cui non è neanche vero che usiamo delle strutture vecchie. Ultima critica: Sì, però voi alla fine fate in qualche modo delle cose strane in modo tale da tenere poi l'inflazione bassa, perché politicamente... Cioè assecondate i governi, ecco, detto fuori dal... Esatto. Ora, come ho detto prima, i dati in realtà vengono rilevati dai comuni. Ora, si immagina se il presidente dell'Istat o chiunque altro avesse l'intenzione di modificare un dato rilevato in giro per l'Italia, anzi tanti dovrebbero essere modificati. Lei dice quanti testimoni ci sarebbero, ecco, no? Non ho capito. Quanti testimoni ci sarebbero? E poi delle diverse parti politiche, comuni di destra, comuni di sinistra, eccetera. Si immagina come immediatamente questo diventerebbe uno scandalo. Allora, qual è il problema vero? Vede, tante volte, no, io su questo devo per onestà non darle una risposta, ma chiederle da giornalista, perché tante volte negli anni, insieme a molti colleghi di testate prestigiose e così via, ci ponevamo di fronte ad alcune release un po' singolari, ma singolari esclusivamente rispetto alle attese, quindi non è che uno si permette, non avendo accesso diretto a come vengono elaborati i dati direttamente, ci ponevamo esattamente il problema che lei ha appena toccato, e cioè esistono centinaia, in alcuni casi migliaia, ma sicuramente anche centinaia a livello centrale e poi a livello periferico, di operatori, rilevatori, eccetera eccetera, che mettono mano al processo di elaborazione dei dati, corretto, ma noi ci chiedevamo, ma se poi il presidente alla fine, o chi per lui, non lo so, fa uno 0,2 in più o in meno, che a volte è uno 0, la differenza che consente un'interpretazione pubblica più favorevole o meno favorevole rispetto poi all'eccesso di convinzione che siano i governi pro tempore a determinare effetti immediati sull'economia, perché poi tanta gente non capisce che c'è una catena intertemporale, eccetera eccetera. Però siccome è questo, dato che spesso i giornali vendono a favore o contro un governo, ci chiedevamo, ma davvero poi quelle centinaia di persone a livello centrale dell'Istat, le migliaia di operatori e così via, avrebbero gli elementi per capire se quello 0,1-0,2% in più o in meno non interviene all'ultimo secondo? Perché in realtà ciascuno di loro partecipa a un pezzetto dell'elaborazione o della raccolta dei dati. Perdoni la domanda un po' brutale, che non è una messa in sotto sospetto di lei personalmente, del suo predecessore, però tante volte ci siamo posti questo problema e in realtà non eravamo in grado di escludere che uno 0,1 in più o in meno, quello che fa la differenza, potesse alla fine anche avvenire. Lo so che è una domanda diabolica, però sono obbligato a fartela. No, è una domanda molto sensata e se aiuta a crescere la fiducia nella statistica, non solo ben venga, ma lei sta dando voce a tante domande di tante persone. Le faccio un esempio: la contabilità nazionale, i conti nazionali e quindi il PIL, ma anche il deficit, ma anche la bilancia dei pagamenti e così via, vengono compilate da un dipartimento che ha circa 100 persone utilizzando centinaia di fonti. Ora uno potrebbe dire, nelle pieghe di questo lavoro forse appunto lo 0,1 o quello che sia ci scappa. Abbiamo avuto recentemente una visita della Corte dei Conti europea, poiché come lei sa questi dati sono utilizzati anche per le politiche europee, c'è un'attenzione spasmodica a queste cifre anche per fini amministrativi. No, anche perché poi c'è chi come la Grecia ogni tanto davvero elabora criteri un po' strani, prego. La Corte dei Conti europea ha fatto una visita di svariati giorni nel Dipartimento della Contabilità Nazionale, chiedendo che il Dipartimento, e devo dire la risposta è stata estremamente positiva, dimostrasse come attraverso tutte le procedure informatiche fosse possibile risalire a tutti i passaggi, a partire dai dati ricevuti appunto da queste fonti esterne, fino ai dati definitivi. Le procedure informatiche infatti lasciano il segno, perché se lei fa qualche modifica resta appunto all'interno dei programmi e quindi lei, se volesse fare delle modifiche con la matita, alla fine non riuscirebbe più a riprodurre i risultati di partenza. Ecco, questo è il tipo di dettaglio, di analisi, di verifica che le autorità europee fanno regolarmente sul modo con cui vengono prodotti i dati a livello nazionale. Ora, ci possono essere dei casi come la Grecia in cui accadono scandali che fanno notizia in tutto il mondo. Grazie al cielo l'Italia, e grazie soprattutto al lavoro dei miei colleghi non solo non è mai stata soggetta a scandali di questo tipo, ma soprattutto è stata in grado di dimostrare alla Corte dei Conti europea che effettivamente i risultati sono replicabili alla virgola. E quindi lei dice possiamo stare ragionevolmente tranquilli. La statistica è stata inventata per andare al di là di quello che ognuno di noi può osservare nel suo piccolo mondo che lo circonda, per quanto grande sia. Il paradosso è che la crisi di fiducia nei dati è crescente, perché si pensa che invece mettendo insieme poche opinioni o poche persone si possano ottenere risultati altrettanto affidabili del mettere insieme invece centinaia di rilevatori, migliaia di famiglie e così via. No, direi che questo è un po' il problema. Sì, ma il problema è soprattutto che il dibattito pubblico oramai è vittima di un fenomeno molto simile a quello che capita nella letteratura, eccetera, eccetera. Cioè il complotto romanzesco prevale nella testa di milioni di osservatori. Perché? Perché dopo 15 anni in cui la politica si è ridotta a scontro tribale da una parte e dall'altra, l'impressione di milioni di italiani, ma che ti incalzano, che ti dicono che come giornalista sei sempre al servizio di questo o quel oscuro interesse fatto per danneggiare, non del fatto che c'è qualcuno che ti paga per danneggiare invece la vasta comunità degli interessi dei risparmiatori, dei clienti e così via. Questo si applica a qualunque settore, ormai nella mia esperienza. C'è sempre l'impressione che il dato che dai sia figlio di una manipolazione oscura, di un complotto di cospiratori per interesse privato e naturalmente che ti comprenda in quanto ti allungano qualche elemosina. Naturalmente il nostro mestiere di giornalisti è tentare di convincere che non è così, come quello, a maggior ragione, molto più elevato vostro di statistici, anzi nel suo caso di responsabile del sistema statistico nazionale, quello di convincere che non funzioni così. Però bisogna tenere presente che questa è la pressione che ci viene da ascoltatori e lettori che sono oramai convinti quasi sempre della malafede nostra come giornalisti, e vabbè, passa. Sì. Però anche vostra, questo è, io ne sono certo di questo, tante volte mi è capitato di parlarne con il predecessore con cui è capitato come sistema di informazione che noi non fossimo teneri, perché secondo me c'erano delle risposte non molto adeguate, ma insomma quel capitolo si è chiuso. Alcune telefonate dagli ascoltatori, cominciamo con Paolo Gila da Milano, che se non sbaglio è un collega giornalista, prego Gila. Sì, buongiorno. Sì, lavoro come giornalista in Rai, mi occupo proprio di economia e nel corso degli ultimi mesi ho pubblicato un libro con Edizioni Big sul tema degli indicatori economici. Il titolo è L'economia che dà i numeri. E l'intento del libro è proprio quello di esplorare il mondo degli indicatori economici cercando di andare a vedere come sono costruiti. Quindi oggetto della riflessione deve essere, a mio giudizio, non tanto e non solo i dati che vengono pubblicati, ma come questi dati vengono costruiti. E mi riallaccio proprio al tema dell'inflazione, perché pochi sanno che il metodo dell'inflazione è diverso da paese a paese, non tanto e non solo per la scelta degli oggetti, delle merci che vengono prese per la rilevazione, ma proprio anche come modello matematico. In Europa oggi viene utilizzato un indice che si affida al modello di Lapeyre, uno statistico francese della seconda metà dell'Ottocento. In America viene utilizzato un altro modello, che è quello di Fisher, che è stato applicato dagli anni 20. Ma ancora prima c'era un modello austriaco di un pensatore, uno statistico che si chiamava Paske e che aveva dato un'interpretazione dell'inflazione diversa da quella di Lapeyre. Allora, non sono elementi di poco conto perché bisogna riflettere anche e soprattutto sulle metodologie che vengono applicate, così come quando nelle attività commerciali si consuma una bevanda, si vuole andare a sapere quali sono gli ingredienti. Anche per gli indicatori economici si dovrebbe, secondo me, sviluppare una conoscenza critica e riflessiva per capire come questi indicatori sono costruiti. E faccio un esempio molto pratico. L'indicatore di Lapeyre, che è quello che noi utilizziamo in Europa, parte da un prezzo di una merce ad un dato anno, che supponiamo essere il 2000, e viene poi parametrato all'anno successivo, quando si completa la rilevazione del prezzo. Quindi questo è un indice che tende a sovrastimare l'inflazione proprio perché parte da un valore più basso. per arrivare a uno più alto. L'altro indice, quello austriaco di Pasche, invece partiva dall'anno finale e andava a ritroso, e quindi la percentuale del calcolo dell'inflazione risultava più bassa, era sottostimata. Allora, direte che ci sono delle frazioni minime. Ma hai ragione, questa è una la grande rilevanza, una differenza di fondo. Teniamo presente, devo interrompere perché devo dare l'informazione sulla circolazione stradale, che per esempio proprio su metodologie statistiche diverse di rilevazione dell'indice dei prezzi e dell'inflazione, insomma, la Fed ha costruito poi negli anni 80 e 90 soprattutto la giustificazione di una politica monetaria molto più accomodante, di cui poi, almeno a mio giudizio, abbiamo scoperto i devastanti effetti, proprio perché la Fed adottò un criterio di misurazione degli effetti dei prezzi interni americani che era molto divergente rispetto a quello europeo. Basti rilevare la differenza tra la componente importata, quella energetica e quella propria del mercato domestico. Siamo con il presidente dell'Istat, io ringrazio Gila che è intervenuto facendoci osservare come noi europei, che ci abbiamo poi la grande paura del 29, ma del collasso di Weimar innestata nel nostro sistema di banca centrale statistico europeo, siamo tradizionalmente quindi più attenti all'inflazione di quanto non capita negli Stati Uniti. Eppure l'accusa che viene tradizionalmente all'Istat è quella di essere al contrario un po' troppo connivente con la politica nella rilevazione dell'indice dei prezzi. Faccio un altro esempio, Giovannini, per chiedergli una risposta di una domanda che viene spesso nei dibattiti. Quando si parla di pressione fiscale nel nostro paese, eravamo al 43,3, rischiamo di arrivare oltre il 46% per effetto della contrazione del PIL nel 2009 e 2008, sono 6 punti di PIL che se ne sono andati più o meno, e quindi abbiamo una pressione fiscale molto molto molto importante, tra le più alte in Europa. Molti fanno poi notare che la pressione fiscale naturalmente si conta su un denominatore che è il PIL, nel quale l'Istat procede di anno in anno all'aggiornamento dell'incorporazione in quel dato dell'economia nera, quella illegale, e c'è un metodo di stima di questo PIL che si accresce di una qualcosa superiore al 16%, che sarebbe divergente nel nostro paese rispetto ad altri. Ecco, questo secondo esempio per consentire di darci due risposte, perché molti ascoltatori chiedono. Sì, e intanto sull'inflazione, quello che ha detto il collega rispetto alle diverse formule di Lasper, di Pasch, di Fischer, eccetera, è naturalmente verissimo ed è perfettamente noto a tutti gli statistici. Proprio perché si utilizza il metodo di Lasper, e che può tendere ad avere un bias o una distorsione di un certo tipo, mentre gli altri ce l'hanno opposta, è per questo che la riponderazione, cioè la struttura di pesi, viene calcolata ogni anno e non, come lei faceva riferimento agli Stati Uniti, si faceva negli Stati Uniti tanto tempo fa ogni 5 ogni 10 anni, perché in quel caso si cumulavano nel tempo le distorsioni di cui parlava il collega. E quindi, ben conoscendo appunto i rischi di queste distorsioni, in Italia si fa ogni anno questa riponderazione, e quindi questo azzera fondamentalmente il rischio di distorsione. Ora però una parola soltanto ancora sull'inflazione e poi passiamo all'economia sommersa. Lei ricorderà che dopo l'introduzione dell'euro c'era chi, veramente in modo fantasioso e direi anche colpevole, parlava di inflazione al 30%. E l'ISAE, l'Istituto per gli Studi e l'Analisi Economica, negli ultimi anni ha fatto dei sondaggi da cui risultato che sostanzialmente la media degli italiani riteneva l'inflazione annuale del 20% nel corso degli ultimi 5 anni e più, quindi appunto il raddoppio dei prezzi in pochi anni. Ora io faccio un ragionamento di questo tipo. Supponiamo che l'Istat non capisca nulla di statistica, neanche i 50.000 statistici del sistema statistico europeo, e abbiano sbagliato gli indici, abbiano sbagliato tutto quanto. Ma stiamo vedendo in questi giorni, in questi mesi purtroppo, come una caduta del reddito reale del 5% produca la peggiore recessione da tanti tanti anni, da 70 anni. Ora si immagina cosa sarebbe successo all'economia italiana, ma anche a quella francese o olandese, dove, o a quella tedesca, dove il problema della sottostima dell'inflazione è stato più rilevato dai media, se la caduta del reddito reale fosse stata del 25-30% all'anno? È un buon esempio, questo secondo me consente di capire anche a chi non è molto addetto ai lavori che non è accettabile che sia avvenuto davvero quel fenomeno, sarebbe stato un disastro tangibile con mano da tutti. Ecco. Questo sconquasso sta producendo, come abbiamo testimoniato lunedì, una caduta del reddito medio delle famiglie italiane di circa l'1,6% e questo produce sconquasso. Allora, un'inflazione anche relativamente bassa si può coniugare con redditi stagnanti, come è successo in Italia da molti anni, e quindi una caduta limitata del reddito delle famiglie, senza scomodare valori del 20-30% che sono completamente fuori dal mondo. Torniamo al caso dell'economia sommersa. È vero, l'Istat effettua una integrazione delle stime che vengono normalmente dalle dichiarazioni fiscali, da tante fonti anche sul lavoro, sull'occupazione, per tener conto dell'economia sommersa. Ora, il metodo sviluppato dall'Istat negli anni Ottanta è stato poi recepito dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, dall'Eurostat, che è l'Istituto Statistico Europeo, dalle Nazioni Unite, per farlo diventare sostanzialmente uno standard internazionale. Quindi, da questo punto di vista, onore al merito degli statistici italiani che hanno un po' fatto scuola. Dopodiché lei mi può dire, ma voi volete farci credere che l'economia sommersa, diciamo così, è solo il 18% del PIL? Ora, io devo ricordare che questa, purtroppo, è una media. Se andiamo a guardare i tassi di economia sommersa nei diversi settori dell'economia, troviamo valori molto diversi. Andiamo da un valore di zero delle banche o delle grandi imprese, la Fiat oppure l'Eni, eccetera, che non credo assumano in nero, a settori come le costruzioni o il commercio, in cui nei dati Istat abbiamo una percentuale di sommerso che va dal 40 al 50%. Quindi di nuovo il 18%, il 17% che nei vari anni si rileva come media, viene da settori in cui il sommerso pesa molto diversamente. Se quindi questo è vero, e andiamo al di là delle medie, andiamo a guardare questi dati più disaggregati, forse scopriamo che la percezione degli italiani rispetto all'economia sommersa per i settori con cui loro hanno diretta esperienza, il commercio, le costruzioni, eccetera, non è poi così diversa dai dati ufficiali. Dai dati ufficiali. Resta il fatto che la vasta richiesta che viene dalla platea di contribuenti è sì, però allora levate dalle mani dei politici l'argomento che sono al 43 o 46%, poiché siccome la pressione fiscale viene da quella parte dell'economia che non è in nero, non è sommersa, ma che le tasse le paga, sia l'Istat a dire ai politici che la pressione fiscale a quel punto la si calcola solo. Ma noi lo facciamo già. Il problema è che però tende a non vedersi questa cosa, tant'è vero che quando poi si spiega nei dibattiti di fronte al classico politico di governo pro tempore che il suo dato è in realtà ben superiore al 50%, lui ci dice che è le traveggole, perché ognuno fa il suo mestiere, per così dire. Senta, ancora le butto un'altra due cose, abbiamo moltissime richieste che chiedono, ma ci fate capire perché dovremmo fidarci della ponderazione che voi date sul peso dei mutui per gli affitti nella componente del paniere delle famiglie, eccetera eccetera, perché molti dicono è sottostimato. Sugli affitti abbiamo una rilevazione che è sempre stata trimestrale, che adesso è diventata mensile dall'inizio di quest'anno, proprio per migliorare anche la sensibilità dell'indice alle fluttuazioni di brevissimo periodo dei prezzi, e i dati di questo, della ponderazione, come ho detto, vengono in realtà dalle dichiarazioni degli stessi italiani quando nell'indagine sui consumi ci dicono quanto spendono per affitti, per automobili, per zucchine, per eccetera eccetera. Questi dati tra l'altro sono estremamente coerenti con l'osservazione che ormai penso molti italiani conoscono, che quasi l'80% degli italiani sono in realtà proprietari della casa in cui vivono. E quindi effettivamente, poiché uno è proprietario della casa e non se l'affitta a se stesso, il peso degli affitti reali è molto più basso di quello che in altri paesi avviene, dove invece i proprietari sono molto inferiori. Ora è chiaro che per chi ha una casa di proprietà l'affitto costa zero, e mentre invece chi è in affitto l'affitto costa tantissimo e incide tantissimo. Ed è qui proprio dove queste elaborazioni ulteriori che l'Istat fa sui prezzi che vengono acquistati più frequentemente e quelli meno frequentemente, o per le varie categorie socio-economiche di famiglie, possono aiutare a dirimere questa questione e a mostrare che le medie nascondono in realtà talvolta variazioni anche molto forti che i nostri dati documentano. Qui, se posso permettermi un'osservazione anche critica, ma mi rendo conto che la quantità di informazioni da trasmettere ai cittadini sarebbe infinita ogni giorno, noi produciamo da molti anni ormai dati disaggregati che spesso non vengono minimamente ripresi dai giornali. Ecco, questo secondo me, posso dire che voi dovete prenderci un po' più a calci nel sedere, cioè ve lo dico, picco presidente, con una espressione un po' impropria, siamo a fine della trasmissione, ma io volevo renderle un grazie per la chiarezza testimoniata anche da molti dei nostri ascoltatori che l'hanno capita, mi pare di capire, senza nessun problema di comprensione, e dicono che questo è anomalo. Secondo me siamo noi giornalisti che dobbiamo riattrezzarci, e voi dovreste molto tirarci le orecchie e molto spiegare ai direttori che una corretta capacità di dare dati condivisi del sistema statistico e contabile nazionale, sapere innanzitutto capire da parte dei giornalisti, è l'ABC per un paese meno tribale. Questa è la mia opinione, grazie al presidente dell'Istat, grazie in regia a Paolo Corleoni, Alessandro Marco Tullo in redazione, la linea al giornale radio, appuntamento a domani. Mm.